Sono attesi per il pomeriggio di oggi i primi verdetti sull'omicidio della studentessa inglese Meredith Kercher, uccisa quasi un anno fa a Perugia. Poco dopo le 9 stamattina è iniziata l'ultima seduta davanti al giudice per l'udienza preliminare Paolo Micheli. Sarà lui che in giornata dovrà prendere una duplice decisione. La prima sulla sorte dell'ivoriano Rudy Gedé, che avendo scelto il rito abbreviato sarà subito giudicato in base alle prove e alle ricostruzioni fin qui acquisite. Anche stamattina i legali del giovane di colore hanno chiesto il proscioglimento con formula ampia o le attenuanti generiche. La seconda decisione riguarda invece il rinvio a giudizio degli altri due imputati, lo studente barese Raffaele Sollecito e la studentessa americana Amanda Knox. Daniele Morini, GR24, Il Sole 24 Ore, Perugia.